Questa edizione, da cosa è caratterizzata? Due aspetti, uno che si gioca sul piano del mercato interno, quindi le costruzioni italiane, ed è quello della sostenibilità, quindi risparmio energetico da un lato e dall'altro il problema sismico messo in grande evidenza. Questi sono i due grandi temi del mercato italiano. Sul piano internazionale invece abbiamo giocato di tutto per un anno, con un anno di lavoro, per cercare di avere uno spiraglio, un'apertura ancora più importante verso i mercati stranieri. Abbiamo invitato gli studi più importanti del mondo, abbiamo creato un'area di lavoro, un'area business proprio per l'estero, ed è lì dove giocheremo la grande carta per tutte le aziende espositrici, per creare proprio delle opportunità concrete e reali di mercato con l'estero. Se noi partiamo dal 2007, che è stato l'ultimo anno con qualche dato interessante, poi 2008 meno, 2009 meno, 2010 meno, 2011 meno, 2012 meno, previsione 2013 meno, cosa vuoi fare? Bisogna cambiare, vuol dire che così non va più bene. Gli strumenti? E gli strumenti bisogna proprio ripensare. Allora, gli strumenti sono il cambiamento delle regole. Solo cambiando le regole si possono trovare nuovi spunti e nuove formule, altrimenti non ce la facciamo.